Radio 24 Reportage. Rifiuti, da problema a risorsa. Quando le capsule di caffè diventano una bicicletta. Di Andrea Ferro. Raccontare l'economia circolare vuol dire fare un viaggio a tutto tondo. Invece che seguire una linea lungo la quale perdersi verso l'infinito, qui si entra in un circuito dentro il quale le risorse, i materiali e le energie vanno e tornano. Tutto avviene all'interno dello stesso processo che funziona come la cinghia di trasmissione di uno sviluppo sempre più sostenibile. Non c'è scelta, altrimenti non c'è scampo, e una volta tanto in Italia lo abbiamo capito più e meglio di tanti altri. Sotto è la prima sorpresa che si incontra lungo questo viaggio. Nel 2017 le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 17,7% del fabbisogno di energia. Per tasso di circolarità, con il 18,5%, l'Italia è prima tra i 5 principali paesi europei. Nel 2016 sono state riciclate 13,55 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari al 45%. In questa graduatoria davanti a noi c'è solo la Germania. Numeri che grandi dal rapporto sulla Green Economy presentato a Rimini in occasione di Ecomondo e cristallizzano virtù apparentemente nascoste. Altri dati, altri numeri seguiranno. Nel frattempo decliniamo in concreto cosa voglia dire economia circolare. Ci possono essere tanti esempi, tanti quanti sono i materiali, gli oggetti che ruotano attorno al nostro mondo. Prendiamone qualcuno e iniziamo con i pannolini. Ci spiega cosa succede appunto con i pannolini Giovanni Teodorani, direttore generale di Fater Smart, l'azienda che ha sviluppato una tecnologia per il riciclo dei prodotti assorbenti. La nostra tecnologia è in grado di riciclare i pannolini, tutti i prodotti assorbenti per le persone usate che fino ad oggi finivano in discarica o in inceneritore, e di dargli nuova vita trasformandoli in plastica, cellulosa e polimero superassorbente. Ecco, ma come li reperite in buona sostanza? Beh, noi li reperiamo attraverso il supporto degli operatori della raccolta e dei comuni. Solo in Italia il 20% della popolazione, quindi circa 12 milioni di persone, un italiano su 5, 800 comuni in totale, è già servito dalla raccolta differenziata. Una mamma che ora ci ascolta e dice vorrei contribuire a questo, cosa deve fare? Deve nei comuni, se vive in un comune dove c'è la raccolta differenziata, servirsene, usarne per buttare in maniera separata i pannolini dei propri figli. Altrimenti, diciamo, fra virgolette, consentitemi in termini, alzare la propria voce per chiedere il servizio. Dai pannolini al caffè, un altro esempio di cosa la circolarità ruotando possa produrre pure un po' inaspettatamente. Ci racconta meglio Marta Schiraldi di Nestlé Nespresso. È un viaggio che da un chicco di caffè, questo chicco diventa un chicco di riso. Perché? Perché dal 2011 ad oggi in Italia Nespresso, insieme al Consorzio Italiano dell'Alluminio ed altri stakeholder, ha istituito un sistema dedicato per la raccolta e riciclo delle proprie capsule di caffè. Quindi cosa succede? Che i nostri consumatori riportano le capsule del caffè dopo l'utilizzo, dopo l'uso, nei nostri punti di raccolta, che sono più di 107 su tutto il territorio italiano. Queste capsule vengono trasportate a un impianto che ha una tecnologia in grado di separare l'alluminio dal caffè. L'alluminio è un materiale preziosissimo che viene riciclato all'infinito e si trasforma in altri oggetti, biciclette, scocche di automobili, eccetera, e mantiene le sue proprietà. Il caffè viene trasformato in compost, viene utilizzato per fertilizzare le risaie in provincia di Pavia e Nespresso riacquista questo riso per donarlo al Banco Alimentare della Lombardia. Dal 2011 ad oggi Nespresso ha donato più di 2 milioni di porzioni di riso al Banco Alimentare della Lombardia. La risposta dei clienti com'è stata? La risposta è eccellente, cresce di anno in anno. Ogni anno raccogliamo sempre più capsule. Pensi che nel 2017 abbiamo raccolto più di 530 tonnellate di capsule di caffè in alluminio, che rappresentano il 19% in più rispetto all'anno precedente. Fotografiamo ancora con i numeri cos'è l'economia circolare. Prendiamo quelli di CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi, al quale fanno riferimento i consorzi Ricrea per l'acciaio, Cial per l'alluminio, Comieco per la carta, Rilegno per il legno, Corepla per la plastica e Coreve per il vetro. Nel 2017 praticamente 8 imballaggi su 10 sono stati sottratti alla discarica e trasformati in materie prime o energia da rimettere nei cicli produttivi. Solo per quanto riguarda l'attività del consorzio CONAI, nel 2017 i benefici diretti generati dalle varie filiere hanno toccato quota 970 milioni di euro e ancora grazie al riciclo è stato evitato il consumo di 3,8 milioni di tonnellate di materia prima. A livello di emissioni di gas serra, il riciclo ha evitato il rilascio nell'atmosfera di 3,7 milioni di tonnellate di CO2. Negli ultimi anni l'uso dei materiali da imballaggio ha subito un'impennata e al di là dei numeri basta l'esperienza quotidiana per comprenderlo. Pensiamo a come si faceva la spesa una volta, come venivano offerti i prodotti. Sul fronte della carta, segnare un'epoca è il vorticoso sviluppo dell'e-commerce. Parliamo di un giro d'affari solo in Italia di oltre 12 miliardi di euro. Tanti pacchi e pacchetti, più carta e più cartone in giro. Il consorzio Comieco ha avviato un progetto per rendere gli imballaggi sempre più sostenibili. A raccontarci questo nuovo capitolo della nostra storia è Antonio Ciaffone. Il click virtuale su un computer poi si ripercuote in una serie di passaggi fisici, che vuol dire l'acquisto di un bene che in qualche modo da un punto viene preso, messo dentro un imballaggio, la gran parte dei casi dentro una scatola di cartone, è recapitato all'acquirente, al destinatario finale. Questo presuppone il fatto che venga rivista tutta la filiera del packaging, dalla progettazione fino al post consumo, e quindi Comieco in questo soggetto, in quanto soggetto di filiera che raccoglie tutte le anime del consorzio, sta intervenendo attraverso una raccolta dei dati con una serie di partner, attraverso per esempio, come è stato fatto da circa un anno, è partito un progetto sperimentale a Milano con AMSA per la raccolta degli imballaggi di e-commerce presso le utenze domestiche, cosa che probabilmente prima non era mai fatta. E a livello nazionale noi abbiamo sostanzialmente una stima di circa 150 milioni di ordini l'anno, che vuol dire che nelle case degli italiani entrano 100 milioni di scatole ogni anno. Nella città di Milano si raccolgono circa 70-80 mila tonnellate l'anno di carta e cartone. Avendo, diciamo, rilevato questo importante incremento della parte degli imballaggi, si è deciso di attivare un progetto sperimentale. Nella sola città di Milano, nell'arco di un anno, abbiamo assistito a una crescita della raccolta di cartone attraverso questo servizio di oltre il 6%, e quindi una raccolta che è passata da 16 a oltre 17 mila tonnellate in un anno. Alla ricerca della plastica perduta è il titolo del concorso promosso dal consorzio Corepla per valorizzare proposte e pratiche nel segno della raccolta e del riciclo. Quattro i vincitori, quali e perché, ci spiega meglio Antonio Protopapa, direttore di ricerca e sviluppo del consorzio. Nasce da un'esigenza di trovare sul mercato nel paese delle iniziative nuove che possano coniugare l'innovazione, che nasce ovviamente anche dal basso, con quelle che sono le necessità che abbiamo oggi nel mercato del riciclo e della raccolta differenziata degli imballaggi in plastica. Abbiamo ricevuto notevoli proposte, alcune molto interessanti, e ne abbiamo premiate quattro. La prima, forse quella più interessante, riguarda l'utilizzo delle plastiche eterogenee come collante nel mondo del trucciolato, quindi nella produzione di pannelli di legno. Un'altra estremamente interessante sono degli antiossidanti innovativi che permettono di ridurre il contenuto di antiossidanti utilizzati e di riciclare più correttamente gli imballaggi in plastica. Una che invece riguarda l'arredo urbano, con una pensilina speciale fatta con plastica riciclata che comunica anche un aspetto positivo della plastica. E l'ultima, che è un'etichetta innovativa che si chiama 1A1, che ci permette di migliorare la qualità della raccolta differenziata. In che maniera? Praticamente permette al cittadino di conferire nella raccolta differenziata agli imballaggi in maniera corretta, perché verrà monitorato sulla base di quello che viene poi riscontrato a valle da chi raccoglie i loro imballaggi, ed è poi in grado anche di misurarne sia la qualità che la quantità. In questo modo, se viene conferito correttamente, riceve un accredito come sconto sulla Tari. L'economia circolare romba anche nei circuiti del moto mondiale e va forte. La dimostrazione è che attorno ad una passione si possono coalizzare le buone pratiche nel segno di un concetto, quello della sostenibilità, che deve imporsi nella testa e nelle azioni e ovunque. Cosa succede? Succede che nei circuiti di Misano e del Mugello i team e gli spettatori, parliamo di centinaia di migliaia di persone, partecipano ad una gara parallela. Ce la racconta Rocca Andrea Iascone di Ricrea. Da qualche tempo i consorzi come Ricrea, Corepla e Coreve, quindi imballaggi in acciaio, plastica e vetro, appoggiano un'iniziativa che ha lo scopo di non solo di sensibilizzare i numerosi ospiti che assistono alle tre giornate di Misano del Gran Premio all'attività di raccolta differenziata dei rifiuti che producono in quei giorni, e soprattutto anche per le migliaia di tifosi che campeggiano in questo posto per assistere alla manifestazione e che quindi consumano pasti e con quelli gli imballaggi in acciaio, tipo i barattoli del pomodoro, delle scatolette di tonno che vengono consumati. E in che modo? Ci sono dei cargo bike che girano per il circuito con dei messaggi che sensibilizzano a non disperdere nell'ambiente questi imballaggi, facendogli capire che cosa si può ottenere con il loro riciclo. Rimanendo in tema del motociclismo, per esempio dalle scatolette e dai barattoli si possono ottenere delle chiavi inglesi che sono utili per i motociclisti per la loro manutenzione. E tutto questo avviene sia per il Gran Premio di Misano ma anche per il Mugello, ed è un'attività che tra l'altro coinvolge anche le due aziende che in questi posti fanno la raccolta, il servizio di raccolta. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.